Allora, buonasera. Allora, siamo qua per la presentazione di un libro molto interessante che si chiama Nasci, Cresci e Posta. C'è qui l'autore del libro, Simone Cosimi, che è comunque già giornalista, professionista, che scrive su molte testate come Wired, La Repubblica, Vanity Fair, Donna Moderna, insomma, molto bravo, che scrive tantissimo, e che è uno dei due autori del libro, perché l'altro è invece Alberto Rossetti, che è uno psicoterapeuta e psicoanalista, e poi... ed è a Torino, quindi oggi non poteva essere qui. E invece chi è che gli farà un po' di domande a Simone è Antonio Pavolini, che è un analista da molti anni dei media digitali, come dico io, è uno che sa un sacco di cose sul mondo dell'internet e che soprattutto anche lui ha scritto poi un altro libro che si chiama Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV. E io quindi vi lascerei subito la parola, poi vi farò domande. Fai qualche domanda anche tu, Serena, era Serena Chilli che ci ha presentato, e che ringraziamo, perché senza di lei credo che oggi qui non ci saremmo per parlare di questo piccolo ma prezioso volume che Simone, che è qui presente, ha scritto insieme ad Alberto Rossetti, che si intitola Nasci, Cresci e Posta, con una domanda un po' retorica, che è: i social network sono pieni di bambini, chi li protegge? Edito da Città Nuova, è un libro che già è alla seconda ristampa. Da quanto tempo è uscito? Già hai fatto la seconda ristampa? È uscito da 3 mesi spaccati. Avrei voluto lo stesso successo anche io col mio piccolo libro, ma il suo è veramente un libro di grande impatto, perché sento di poterlo dire, intanto non si allinea a questo racconto dominante che, quando parla di internet e di minori, inserisce automaticamente la rete come oggetto tecnico tra i colpevoli e tutto il resto del mondo come gli innocenti. Quindi sono innocenti ovviamente i minori, sono innocenti ovviamente i genitori, la scuola, le forze dell'ordine, i media, i giornali, la televisione, sono tutti buoni, l'unico cattivo è internet. Questo è il racconto dominante di cui parlo anche in Oltre il rumore. Ma invece la cosa bella di questo libro è che si concentra proprio sul tema del rapporto con i minori, che sì, il mio libro no, perché francamente non mi sembra il caso. La cosa bella di questo è che il tema sfugge completamente al racconto dominante e parla della inadeguatezza anche dei genitori, anche delle responsabilità del mondo delle istituzioni, le leggi che sono in ritardo, la mancata consapevolezza pubblica, i media che non colgono il punto. Ecco, se c'è una persona che ha colto il punto è proprio Simone, che scrive da ormai parecchi anni di queste cose, e non soltanto. In generale scrivi di transizione digitale su Wired, Repubblica, eccetera, e riesci sempre a fare da contraltare rispetto a questo racconto strabordante, che è un racconto che serve soprattutto ad alimentare l'attenzione, no? Perché oggi il web deve fare notizia necessariamente quando offende, quando è colpevole, quando uccide Tiziana Cantone, per esempio, che si suicida perché esiste Zuckerberg, esiste Google. Questa sarebbe la storia che ci raccontano. Naturalmente il problema invece è l'inadeguatezza che abbiamo rispetto a questa rapidissima transizione digitale che stiamo attraversando, e i bambini, ma anche i genitori, ma anche la scuola, eccetera, ci rimangono in mezzo. È un libro che Simone ha scritto insieme a un'altra persona di grande competenza, che ho conosciuto alla fiera Più Libri, Più Liberi, quando hanno presentato il libro in quell'occasione a Roma, a dicembre, e che è uno psicoterapeuta esperto proprio in disagio adolescenziale. e che è andato molto a fondo, ha trovato tutta una serie di case study che sono raccontate in questo libro. Quindi io quello che vorrei chiedere è intanto come è nato questo matrimonio con questo psicoterapeuta torinese. E com'è nato? Come il matrimonio era la parola giusta. Sì, no, andate sempre insieme. Faccio più tempo con lui ormai. Okay. Com'è nato il progetto e come hai conosciuto Alberto? Com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata dal... Buonasera a tutti. Prima cosa, grazie a Serena, grazie a Antonio e grazie a Caffeina. Dunque, l'idea è nata un po' da quello che dicevi. E un po' dal fatto che qui in mezzo a tutti questi libri, e quindi in generale facendo un po' di analisi di quello che c'era in circolazione, ci siamo resi conto che il fatto che mancasse una via di mezzo fra una rassegna giornalistica e una guida, e che però avesse anche un plus psicologico, no? Cioè un approfondimento forte sui temi dell'identità, della costruzione dell'identità, del modo in cui i ragazzi stanno sui social network oggi. E quindi diciamo è nata così, Alberto era una mia fonte, io faccio giornalista, quindi Alberto era uno di quelli che noi giornalisti ogni tanto chiamiamo per... Stava sull'agendina. Sull'agendina digitale, pure quella. E uno di quelli che ogni tanto noi chiamiamo per arricchire i pezzi, per dargli, come si dice in gergo, una voce, due voci, quindi per farli un po' parlare, per renderli più interessanti. E diciamo, negli anni è nato questo rapporto, e ho fatto, abbiamo pensato di mettere a frutto questa relazione molto forte che si era creata, anche perché poi i pezzi che venivano fuori erano sempre molto interessanti, quindi non è sbagliato dire che poi in qualche modo nasce anche da quella collaborazione lì. E l'idea era proprio questa, c'è un sacco di roba, probabilmente anche qui in mezzo, c'è un sacco di roba sui ragazzi, ragazzini, bambini, diciamo noi li chiamiamo in generale minori, di 13 e di 18 anni, perché poi la vera soglia, come avremo modo di vedere nei prossimi minuti, nel mondo di Facebook, di Instagram, eccetera, è quella dei 13 anni. E c'erano alcune cose, ma insomma, tutti i manuali piuttosto pesanti o legati magari a corsi universitari, insomma, cose poco divulgative e magari anche non esattamente in linea con il target che ci eravamo messi in testa, quindi i genitori, gli educatori, ma anche insomma in fondo... anche gli stessi ragazzi un po' più smaliziati, un po' più grandi. E appunto l'idea è quella di dare da una parte una rassegna, cercare di far capire perché la situazione è quella che è adesso, cioè un clamoroso far west. Come si è arrivati a sta storia dei 13 anni? Come si è arrivati per esempio a sta storia dei 13 anni che molti ignorano, per quale motivo su queste piattaforme ci sono un sacco di ragazzini e alle piattaforme non interessa mettere in campo dei metodi per andarli a, come diciamo noi sempre, a bonificare, no? A recuperarli, cioè a farli fuori in qualche modo, perché lì non dovrebbero starci. E d'altra parte appunto dare quell'affondo in più che andasse oltre, no? Le polisi, oltre la parte. Quando c'è Alberto ci dividiamo sempre i ruoli, io faccio quello noioso e pesante che parla delle leggi, delle polisi, delle regole, dei terms of use, come si dice in inglese, quindi delle condizioni d'uso, eccetera, e Alberto fa il crepè della situazione in cui si becca tutto il fascino e tutta... In questo caso cercherò di fare... Guarda, ci riesci subito, anche perché ti faccio subito la domanda sul terms of use, che è questa cosa che in automatico tutti, bambini, adolescenti, adulti, facciamo quando aderiamo a social network, no? Clicchiamo su una casella che dice accetti le condizioni d'uso e nessuno di noi le legge. Vorrei dire che adesso, a parte Simone che praticamente ci ha scritto un libro e alcuni giuristi, cioè lui li deve leggere per forza, ma io sfido chiunque qui in questa libreria, bistrò bellissimo tra l'altro, alzare la mano e dire io ho letto le condizioni di servizio. Ecco, se leggete le condizioni di servizio avete la risposta alla madre di tutte le domande, e che è, ma con quale criterio, che criterio sceglie Facebook, Google, anche Amazon, anche Netflix, per stabilire se tu effettivamente hai titolo a usare un certo servizio e sei tutelato, i tuoi diritti di minore, ma anche poi di adulto, eccetera, sono tutelati? Allora, siccome si parla tanto di arretratezza delle leggi, E si parla poco del fatto che le leggi sono diverse da paese a paese, questi signori si, quindi con la scusa del fatto che le leggi sono diverse da ogni paese possono, pensano di poter decidere da soli. La risposta è questa: loro non hanno bisogno minimamente, le grandi piattaforme, di tutelare l'utente maggiore, minore che sia, hanno solo la necessità di tutelarsi loro delle conseguenze legali delle vostre azioni. Questa, e quindi è sempre una grande foglia di fico, anche questa storia dei 13 anni. Ora spiegaci perché 13 anni, come mai si ritiene che dopo i 13 anni una persona possa avere un account su Facebook, per esempio. La spiegazione è abbastanza semplice, potrebbe lasciare anche un po' sorpresi, come almeno è successo questi mesi quando abbiamo presentato il libro un po' in giro per l'Italia. Di fatto non c'è nessun legislatore, né europeo né italiano, che abbia prodotto una qualche legge, una qualche norma sui social network. Noi seguiamo nella sostanza un provvedimento approvato 20 anni fa negli Stati Uniti, che si chiama Children's Online Privacy Protection Act, e che è un provvedimento che riguarda esclusivamente la raccolta dei dati degli utenti. Cioè, quella legge dice: se voi, fornitori di servizi di Facebook, Instagram e via dicendo, volete offrire dei servizi, cioè volete sentirvi in qualche modo, volete essere autorizzati a lavorare anche con minori di 13 anni, dovete mettere in campo una serie di incombenze, altrimenti non dovete far entrare i minori di 13 anni in qualche modo. Quindi è una legge che non si occupa in alcun modo dei contenuti, non si occupa in alcun modo di fornire delle prescrizioni nel qual caso in cui i 13 anni poi in effetti ci finiscano su quelle piattaforme, ma dice solo, per dirla proprio in termini molto molto poveri, mettete il famoso disclaimer, il famoso tick, la famosa calendarietto in cui l'utente sceglie in che giorno è nato e sei al sicuro. Quella roba lì, approvata 20 anni fa dal Congresso americano, la seguiamo anche noi. Quindi la famosa storia... Ecco, domanda, perché lo seguiamo anche noi? Seguiamo anche noi perché la strada è esattamente quella di cui parlavi tu in precedenza, cioè loro, le piattaforme, fanno riferimento a tribunali statunitensi, la loro legge di riferimento è quella statunitense, quindi loro devono tutelarsi di cause presso i fori, nella stragrande maggioranza dei casi. Ma perché non è un tema al centro dell'agenda politica il fatto che queste cose sono decise dall'esigenza di Zuckerberg di tutelarsi dai tribunali statunitensi? Cioè, nei 1000 convegni che si fanno alla Camera e al Senato, perdonatemi, dove sono in prima fila personaggi molto in vista dal punto di vista politico, di cui oggi non faccio il nome, ma che potete facilmente immaginare, perché alla fine la ragione finale del perché ci troviamo in questa situazione non viene mai fuori? Cioè, vengono fuori le nuove leggi sul cyberbullismo, vengono fuori divieti astrusi che nascono nella profonda incompetenza su queste piattaforme, però il problema centrale, cioè la globalizzazione come scusa per fregarsene del diritto, per esempio banalmente del diritto italiano, perché noi abbiamo delle leggi che già tutelano i bambini. Sì, diciamo che allora, da una parte, fortunatamente lo scenario non è... sta diventando, insomma, prenderà una piega un pochino più positiva, perché il prossimo maggio verrà approvato il nuovo regolamento europeo per la privacy e finalmente almeno Bruxelles batte un colpo e si allinea a quelli che sono gli standard di questa legge che vi raccontavo prima. Quindi anche l'Europa dal prossimo maggio ci dice che sotto i 13 anni, cioè se lui vuole farsi un profilo su Facebook, bisognerà che la mamma gli dia consenso, fornendo probabilmente, a seconda dei metodi che metteranno a disposizione, il documento, per dirne una. Quindi qualche cosa potrà cambiare. Il regolamento europeo prevede anche che questa soglia possa essere elevata a 16 anni, il che creerebbe anche delle situazioni abbastanza surreali, perché al momento Facebook e compagnia sono strapiene di utenti che hanno più di 13 anni, quindi qualora l'Italia prevedesse di innalzare quella soglia, automaticamente centinaia di migliaia di utenti dalla mattina alla sera. Però fino adesso siamo stati in un completo far west. Questa è la... Sì, siamo passati, però adesso si passerà dal far west a una, diciamo, civilizzazione che però, passando da Bruxelles... Faccio una domanda dove spero la tua malizia giornalistica venga fuori nella risposta. Passando da Bruxelles, passa anche dagli uffici dei grandi lobbisti, delle grandi agenzie di lobbying, che hanno tutti gli uffici nella stessa via dove c'è il Parlamento Europeo. Cioè, c'è una stazione della metro che si chiama Kunstvet a dove c'è proprio il punto dove si decidono le regole per tutti noi, e oltre al Parlamento, e oltre alla Commissione, scusate, perché il Parlamento è a Strasburgo, oltre alla Commissione ci sono gli uffici della Robinson Linton, della Barson Marsteller, che hanno come clienti, sono dei lobbisti, hanno per clienti le agenzie hanno per clienti le grandi piattaforme. Infatti il provvedimento previsto dal nuovo regolamento della privacy è esattamente, ricalca esattamente hanno scritto la legge statunitense, a parte quella previsione di cui vi parlavo. Quindi diciamo il punto di partenza è questo. La tesi che noi sviluppiamo nel libro è che le piattaforme avrebbero moltissimi strumenti per fare qualcosa già di per se stesse, e invece si limitano a partnership, accordi più o meno pubblicizzati, in Italia per esempio con Telefono Azzurro, con tutta una serie di altre organizzazioni, che però nella sostanza non vanno a incidere sul problema. Loro avrebbero moltissimi strumenti. Noi citiamo una studiosa statunitense, si chiama Mary Eichen, che ultimamente ha scritto parecchi articoli e parecchi libri in cui accusa le piattaforme, e per esempio, adesso senza entrare troppo nel tecnico, ma loro potrebbero utilizzare il riconoscimento facciale, ci riconoscono nelle fotografie, ci suggeriscono gli amici da taggare nelle foto che scattiamo qui in mezzo fra noi. Se io faccio una foto, probabilmente mi suggerirebbe di taggare Antonio, se stessi in America, perché in Europa quella funzionalità non è operativa per le questioni della privacy. Insomma, se fossi in America, quindi significa che possono farlo, possono fare un'analisi approfonditissime dal punto di vista delle discussioni che si sviluppano sotto i post, insomma, potrebbero fare diverse cose che non fanno per cominciare a far vedere che quel tipo di utenza in effetti gli interessa molto. Anzi, semmai fanno tutt'altro. Avrete probabilmente saputo che un paio di mesi fa Facebook ha lanciato, ma dico Facebook per dire tutto, io quando parlo di Facebook qui non è che ce l'abbia poi specificamente con Facebook, perché le politiche sono più o meno le stesse. 20 anni fa ce l'avresti avuta con Junior TV per gli stessi motivi. E 2 mesi fa Facebook ha lanciato negli Stati Uniti, in prova, ma ben presto probabilmente lo espanderà a tutta l'utenza, Messenger Kids, che è una versione per bambini della sua chat, che prevede un legame con un cordone ombelicale con i profili dei genitori, che possono decidere con chi potrà parlare, con chi potrà chattare il figlio, insomma, tutta una serie di vincoli, diciamo così, che dovrebbero in teoria rassicurare, no, i genitori, ma nella sostanza stanno allevando le generazioni del domani, cioè stanno allevando i cittadini digitali del domani su quei continenti lì, e invece di fare l'esatto contrario. Questo, per esempio, rimanendo Facebook, dico solo questa cosa, addirittura già nel 2013, in un convegno, in un intervento che fece in New Jersey, Zuckerberg, che allora non era ancora padre, si lasciò sfuggire proprio una frase in cui diceva: prima o poi questa soglia dei 13 anni bisognerà in qualche modo superarla, anche formalmente, cioè anche se nella realtà dei fatti i ragazzini già ci stanno sulle piattaforme, bisognerà anche in qualche modo superarla. E la direzione in cui stanno andando i prodotti nuovi che vengono lanciati negli ultimi mesi è nella sostanza quella lì. Ecco, c'è una statistica impressionante che riguarda un paese che ha un'età media molto più bassa della nostra, il Brasile, dove più della metà degli utenti di internet è convinta che Facebook sia internet. E questo è già il risultato di un'operazione di brainwashing, di lavaggio del cervello di questo tipo, nel senso che al di là di tutte le preoccupazioni che il vostro libro mette a fuoco, c'è un'altra che forse interessa un po' di più me, che mi occupo di ecologia degli ecosistemi dell'informazione. Cioè, noi diamo per scontato, dopo che abbiamo inventato internet, cioè un luogo dove cercare noi le cose che ci piacciono e che ci interessano, abbiamo questo patrimonio di conoscenza, siamo finiti di nuovo in una sorta di grande televisione dove sono altri prima che noi ci fermiamo un attimo a dire che cosa voglio approfondire, non sono altri a dirci di che cosa dobbiamo parlare, quali sono i temi, ci arrabattiamo tutti i giorni a discutere di quei 10 temi decisi la mattina sempre nei giornali, cioè, però non voglio tornare sempre su questa vecchia polemica, dico semplicemente che se siamo arrivati fino al punto di far coincidere Facebook con internet, noi diseduchiamo le giovani generazioni alla scoperta. Ma sta succedendo esattamente quello che in questi anni è successo con i paesi, con i mercati, come li chiamano, le piattaforme in via di sviluppo, che sono, come si dice, mobile first, no? Cioè sono mercati in cui gli utenti non hanno passato la fase del computer, della scrivania nostra negli anni 80 e 90 fondamentalmente, ma sono arrivati alla disponibilità della connessione, e che non è ancora ancora affatto diffusa, ma insomma di una possibilità di accesso alla rete sostanzialmente tramite gli smartphone, e sta avvenendo, continua ad avvenire questa cosa in questi anni, con il passaggio dai cosiddetti feature phone, cioè dai vecchi telefonini, agli smartphone di bassa gamma che costano poco ma che comunque danno accesso alla rete. Diciamo che con alcune delle nuove generazioni sta avvenendo esattamente ciò che è avvenuto in India, in certi paesi africani, cioè la sovrapposizione totale tra queste piattaforme che d'altronde sanno benissimo ciò che sta avvenendo e fanno di tutto per non farci uscire, no? Per innescare quella che si chiama sindrome da recinto dorato, no? Cioè noi dentro queste piattaforme in fondo ci troviamo tutto quello che ci serve. In Italia un po' meno, perché l'Europa ha delle, fortunatamente, delle maglie sulla privacy, eccetera, un po' più strette, ma gli Stati Uniti, se noi fossimo, Neapolis adesso, potremmo scambiarci del denaro via Messenger, potremmo chiamare un'auto Uber, potremmo vendere, questo lo possiamo fare anche in Italia, vendere il vecchio telefonino sul marketplace, cioè potremmo fare tutta una serie di cose che ci rendono sostanzialmente inutili andarci a cercare il sito specializzato nella vendita del telefonino. Sì, anche perché Facebook ha il suo browser, cioè c'è già questo che dovrebbe fare, cioè quando andate su Facebook e poi atterrate su un sito, la prima pagina che vedete è comunque elaborata sempre da Facebook. Cioè fanno di tutto per evitare che usiate uno strumento che vi permetta di uscire fuori. E non solo, per esempio, i paesi dove Facebook non si può usare, come la Cina, e che hanno una copia esatta di Facebook, allora lì l'app che imita Facebook e replica le funzionalità è ancora più pervasiva e ti fa fare tutto. Controllare lo Stato. È controllata dallo Stato e quindi passa tutto da lì. Ragazzi, questo sta avvenendo. C'è da dire però che per fortuna, almeno da quello che abbiamo visto, il libro è ricco anche di testimonianze raccolte soprattutto da Alberto Rossetti, che è uno psicoterapeuta e frequenta quotidianamente classi soprattutto delle scuole del centro-nord, dove tiene dei corsi, dove ovviamente tutti anonimizzati, ci sono però delle storie piuttosto significative. L'altro aspetto interessante è che per fortuna i ragazzi poi da questo tipo di minaccia un po' ne fuggono anche per proprio conto, no? Ad esempio Facebook è uno dei più detestati paradossalmente dai ragazzini, nel senso che di Facebook i ragazzi ne usano alcune funzionalità, usano alcune porzioni delle piattaforme, no? Cioè ritagliano la loro dieta digitale come ritengono meglio, stanno su altre app, molte delle quali probabilmente conoscete, altre meno, da Instagram a Musical.ly a le chat, le piattaforme anonime che sono Telegram, Snapchat, esatto, poi ci sono le piattaforme anonime che sono un'altra grande febbre autolesionistica di questi tempi, insomma una delle ultime si chiama This Is Crush e sono sì come il vecchio Sahara, che forse Sarka, alcuni di voi ricorderanno della scorsa estate, sono queste applicazioni in cui sostanzialmente tu puoi farti insultare liberamente dagli altri senza sapere l'intento, di fatto hai una pagina su cui ciascuno può pubblicare come un po' la parete del bagno dell'autogrill. Il fatto che tutti questi oggetti che usano soprattutto i ragazzi sono fuori completamente anche dagli allarmi dei genitori, cioè io non ho mai visto un genitore allarmarsi per cioè ci si allarma per quello che succede su Facebook, non ci si allarma per quello che succede, si allarma perché per polemiche pretestuose di chi li va a prendere a scuola magari, esatto. No? E poi non conosciamo i territori veri dove passano buona parte delle loro giornate. E questo è un altro punto centrale del vostro libro, il problema del gap generazionale, cioè è difficilissimo per un adulto guadagnare l'autorità per far valere il proprio ruolo, che rimane assolutamente nei confronti dei figli, lo ripete spesso Rossetti quando facciamo le presentazioni anche con lui, è difficile perché l'altra persona può opporre il tema, il minore ha questa sensazione di inadeguatezza tecnologica del genitore ma anche dell'insegnante, no? Cioè anche a scuola il problema neanche si pone, il cellulare va spento a scuola, no? E questo però al ragazzo sembra la chiusura di un pezzo di mondo, che è un pezzo di mondo con cui poi nella vita lui dovrà continuare a vivere, che nessuno gli insegna, e quindi di nuovo rimangono soli. Ecco, questo è un tema che il libro pone veramente al centro, anche perché nell'usare i social network spesso sono gli adulti a dare il peggior esempio. Sì, ma d'altronde i bambini, i ragazzi un po' meno, ma i bambini imparano fondamentalmente imitando e giocando. Se su queste due direttrici trovano esempi che li portano fuori strada, perché i genitori passano la serata col telefono sul tavolo al ristorante e li parcheggiano su queste piattaforme che non sono affatto, questo è un altro punto su cui noi sottolineiamo molto, che non sono affatto piattaforme programmate, pensate come ambienti di gioco, di crescita. Cioè il punto che spesso ci sfugge è che queste piattaforme fanno di tutto per farci sfuggire, perché sono zeppe di quella che in gergo si chiama gamificazione. gamification, no? Cioè sono piattaforme divertenti da usare, sono piattaforme ricche di linguaggio iconico, no? Sono, come dire, divertenti dal punto di vista dell'usabilità, facilissime, molto più, come dire, molto più semplice produrre contenuti che rimuoverli e gestirli. Questo è sempre il grande inghippo che c'è su queste piattaforme. Basta un tocco per pubblicare una foto, ma poi se vuoi andare a capire chi la può vedere, da chi voglio escludere l'audience, come rimuoverla, eccetera, faccio, mi ce ne vogliono due o tre di tappe, no? Cioè devo sempre rifare un po' il percorso un po' più lungo. Quindi, diciamo, chiaramente se nell'imitazione, nel gioco, li mettiamo di fronte a dei modelli già di per se stessi scricchiolano, poi è anche complicato, no? Rivendicare una certa autorevolezza. Quindi il consiglio che noi diamo sempre è sporcarsi le mani e muoversi un po' come se si fosse su un territorio di guerriglia, cioè se tu non conosci veramente quello che ti circonda, anzitutto non avrai mai l'allerta, perché non sai per cosa dovresti essere allerta. E d'altra parte non sapresti nemmeno fornire qualche indicazione. Oggi proprio un'intervista che facevo in macchina mentre venivo, mi è stato chiesto, ma secondo te le scuole che cosa dovrebbero fare? Ecco, basterebbe che le scuole ascoltassero, non servono le ore di lezione, l'oretta di Facebook o di social network, non è quella roba lì che serve. Basterebbe un ascolto attento, ovviamente ci sono dei docenti pronti, ma insomma, la stragrande maggioranza oggettivamente non è esattamente ferrata per il tema, basterebbe che ascoltassero e fornissero delle indicazioni molto pratiche, anche come quelle che diamo nel libro, per fare in modo, e qui finisco il giro, ho toccato un po' di punti, per fare in modo poi che non si inneschi quella che è un'altra studiosa che noi citiamo nel libro, che è Dana Boyd, che è una che ha studiato tantissimo questi argomenti, statunitense anche lei, chiama un po' l'effetto drama, no? Cioè spesso e volentieri i ragazzi su queste piattaforme tendono proprio a scrivere una specie di sceneggiatura della loro vita, no? Per cui anche gli aspetti più sciocchi in fondo, no? più minimali, più trascurabili, che nella, come dire, che dei visu passerebbero in un secondo, diciamo così, digeriti sulle piattaforme, vissuti sulle piattaforme, diventano drammatici, cioè diventano problematici. Allora, per avere i mezzi, per intervenire, disinnescare quell'effetto drama, quella sceneggiatura che si crea sulle piattaforme, perché queste piattaforme ci danno la possibilità di costruire numerose identità nostre, noi mandiamo convinti di poterle controllare, ma in realtà spesso e volentieri ci sfuggono, ed è lì che si creano i veri problemi, non nel fatto di avere lo smartphone o il profilo. Il problema si crea quando tu vivi l'illusione che quello specchio possa vivere in piena autonomia e tu possa controllarlo. E quindi, diciamo, il punto è esattamente questo, è riuscire a disinnescare quell'effetto drammatico che si innesca anche, per esempio, un'altra polemica riguardo al cyberbullismo. È stata approvata una legge abbastanza importante la scorsa primavera, una legge tendenzialmente di sensibilizzazione, anche se prevede alcune cose interessanti, cioè insomma sono alcuni passaggi da denuncia all'autorità per la comunicazione, sono alcune cose che possono fare i ragazzi, i genitori, i ragazzi colpiti da atti di bullismo digitale. Però anche lì, spesso e volentieri, le cose che accadono ai ragazzi sui social non sono propriamente necessariamente cyberbullismo, tutti i costi. Sono cose che accadevano anche prima, che chiaramente queste piattaforme moltiplicano. Quindi basterebbe una voce esperta, competente, in grado di disinnescare anche certi effetti, di spiegare come evitare, no, che un certo contenuto, ad esempio, circoli troppo oltremodo rispetto a quello in cui è stato pensato. Tanto per dire, ecco, l'illusione, perdonare il gap generazionale, di parlare di che c'è tra genitori, educatori e ragazzi e ragazzini, spesso si ha l'illusione che loro ne sappiano di più per quello di cui sta facendo adesso, sempre che lì giustamente sta approfondendo il lato creativo del dispositivo che c'ha davanti. Ma il punto è proprio quello: lui ha una grandissima, avrà una grandissima competenza sotto il profilo creativo, tutto il resto non ce l'ha, tutto il resto deve dargli a qualcuno. La famosa chiave di interpretazione di un mondo che nel frattempo è. Questo è quello che succede quando c'è una generazione di differenza. No, perché è affascinante, perché in realtà accade anche che ve ne siano due, e questo abilita il libro più venduto in Italia sul tema del rapporto tra i minori e le generazioni più anziane. Cioè, il libro più venduto sul tema di questo libro in Italia in questo momento è un libro di Aldo Cazzullo che si intitola Metti via quel cellulare di Mondadori. Se andate in qualsiasi libreria, anche non Mondadori, trovate delle piramidi con questo libro che va a ruba. È il libro di chi rifiuta di porsi il problema, non capire il cellulare o che cosa succede. non parla neanche di internet, dice metti via il cellulare nel titolo dell'opera. Perché? Perché non si è capita internet, non si è capito che succede qualcosa tra un cellulare e l'altro, il problema è il cellulare. Questo è il racconto dominante sul tema che il vostro libro affronta. Dietro c'è una catena economica che si regge perfettamente, perché quello è un libro che si vende e chi lo compra lo comprano i nonni, è uscito sotto Natale, prima di Natale, e lo regalano sotto l'albero ai figli. E, sapendo che non sarà letto, è il consiglio del nonno che sa scrivere meglio rispetto al nonno che regala. Come si rompe questo cortocircuito? Come si può raccontare qualcosa di diverso? Guarda, l'altro giorno ho uscito un bell'articolo sul sito che mi consiglio di frequentare, che si chiama The Nation, che parlava proprio di questo fatto qui, del fatto che la generazione attuale che ha le idee del comando, una piccola parentesi sul mio mondo, che è quello giornalistico e dei media in generale, semplicemente per farvi capire in effetti quello che diceva Antonio, cioè che questi argomenti, c'è cioè bisogno di questi approfondimenti, ma non è che lo dico in base al l'accoglienza che abbiamo avuto di questi punti di vista su questi temi, perché diciamo, chi ha le leve del comando adesso nell'ambito giornalistico in generale ed editoriale sostanzialmente parla ai propri coetanei e parla a una, come dire, a una generazione che ha scavallato una certa in mezza vita, no? Quindi un passaggio anagrafico di un certo tipo e non ha più alcun contatto con perché quello è un passaggio molto più traumatico, esatto. E non ha più alcun contatto, diciamo, con le generazioni precedenti. Poi dopo di te, noi abbiamo fatto anche il gioco che sia uscito in corrispondenza con il Riccardo, perché è esattamente, diciamo, esattamente lì, il contrario di ciò che dice lui. Per lui il problema è il mezzo, per noi il mezzo è un'opportunità che va approfondita prima che ci spiega davvero per tutto. Perché il problema vero è, poi vedete, siamo anche ricci di noi sotto. Si accorgerà che, per esempio, il coautore Alberto Rossetti, che ha curato in particolare alcune sezioni, è anche lui uno piuttosto severo su certi punti, quindi entro certi limiti di età, per lui il genitore deve prendere a fare il genitore, se no è no, entro certi limiti non si utilizza lo smartphone, magari si utilizzano altri dispositivi altrettanto creativi, ma sconnessi, certo, sconnessi dalla rete, insomma. Quindi per carità non è quello il punto. Tutto è che questo tipo, quel tipo di letture che tu dicevi funzionano perché appunto parlano a una certa generazione, parlano a una generazione che compra i libri. Come si rompe? Questo circolo vizioso si romperebbe se, ma io tanto più lo dico, se gente come me cominciasse ad avere qualche cominciasse a contare qualcosa di più in questo triste mondo dell'editoria. Non contiamo niente, però possiamo fare queste cose qui per cercare di. Allora, la grande Dana Boyle, che per fortuna non è come tanti, diciamo, virtuosi del marketing delle idee che cavalcano le onde, no? Parla di questo effetto trama. Come nasce questo effetto trama? La generazione che dà l'esempio, la nostra, usa sui social media i codici della cultura broadcast nella quale siamo immersi e nuotiamo. Nuotare credo che sia una metafora molto adeguata in questo caso, da una trentina d'anni a una cultura fatta di narcisismo, di arroganza, di prepotenza, di litigio. I talk show sono incivili, i talk show che ci sono adesso. 30 anni fa, gente che aveva tutti i motivi per odiarsi e fino a spararsi per strada, come Almirante, Berlinguer e Pannella, però discutevano molto più civilmente. Oggi invece ci si prende a pugni in faccia su cose molto futili. Con questa cultura broadcast non avrà avuto un ruolo nel far sì che per avere rilevanza nelle proprie Instagram stories i nostri figli oggi debbano drammatizzare tutto, devono tutti comportarsi come delle piccole star, delle piccole celebrità. Ma sì, questo sicuramente. Naturalmente è un po' la logica secondo cui funzionano queste piattaforme. Nei mesi scorsi ci sono stati alcuni, che li chiamo pentiti, no? Cioè gente che si è arricchita nei primissimi anni di vita di queste piattaforme, che ne ha ricoperto magari dei ruoli importanti, ne è stato presidente, ha messo dei finanziamenti quando queste piattaforme erano poco più che idee in un dormitorio di Harvard per parlare di Facebook, con le idee di un giovanotto che tornava da un viaggio, come Instagram, perché Instagram è nato esattamente così, dopo una vacanza in Messico di Kevin Systrom, che avrebbe voluto, che è il fondatore di Instagram, avrebbe voluto a tutti i costi condividere le immagini con la fidanzata, anzi alla fine si è diventato la fidanzata, neanche lui, perché una vita tutta, vabbè. E nascono però sotto questo punto di vista, cioè negli anni hanno sviluppato dei trick psicologici, no? Cioè dei passaggi, degli inganni psicologici, perché no, alle volte forse si esagera con l'allarmismo. Uno di questi manager pentiti, per esempio, recentemente si è lasciato andare con una frase veramente pesantissima, cioè Dio solo sa che stanno facendo queste piattaforme al cervello dei nostri bambini. Allora, al di là dell'allarmismo, anche questo diventa subito un titolo di giornale. E questo diventa subito un titolo di giornale con migliaia di condivisioni. Ahimè, in ogni caso, sono stato costretto ad occuparmene anch'io. Ho cercato di farlo nel modo più obiettivo possibile. Pensate se oggi uno di questi rilasciasse un'intervista e dicesse: Internet è la terra delle opportunità, finalmente, la libertà di espressione, eccetera. Secondo voi qualcuno lo andrebbe a intervistare? Io credo nessuno. Cioè, poteva funzionare 15 anni fa, no? Quando intervistava Lawrence Lessig che parlava di share culture, eccetera. Adesso invece si può comprare. Infatti il povero Tim Berners-Lee, che è l'inventore del web, non se lo fia per nessuno, perché è uno dei pochi che cercano di, quando escono queste parate, di limitare i danni, ma non solo lui, è inventato il web, cioè senza di lui non avremmo la logica di libertà. Ma è inventato un web molto diverso da quello, cioè, di adesso. Senti, per rimanere nell'attualità, è notizia di stamattina che Facebook ha intenzione di rivedere il proprio algoritmo, che è, diciamo, la regola che fa sì che nelle vostre timeline arrivino in primo piano certe cose rispetto a certe altre, no? C'è stata la fase in cui iniziale, in cui era un semplice criterio cronologico, poi con il tempo hanno introdotto tutta una serie di regole per far andare su le cose che convengono al modello di Facebook, no? Quindi i contenuti che hanno più engagement, quindi le notizie, le cose su cui vi accapigliate. Io non sto improvvisando, perché l'algoritmo di Facebook è opaco, nessuno lo sa, però insomma, come la Coca-Cola, come la formula della Coca-Cola, esatto, uno lo intuisce. Ma come mai adesso comincia a parermi sempre Spelacchio? Perché su Spelacchio è chiaro che la gente si accapiglia, perché ci sono i grilli da una parte insieme all'altra, no? Poi ci sono gli su Spelacchio è successa una cosa fantastica nei giorni scorsi, vedo il racconto, perché poi sono stato costretto ad annullare i funerali di Spelacchio. Ah sì, sì, racconta, c'era questa, facciamo una piccola digressione. 6-7 mila adesioni, ovviamente era un evento del tutto goliardico e inesistente, ma c'era gente che minacciava di radunarsi davvero a Piazza Venezia, che ho annullato tutto per non beccarmi la denuncia ancora dall'altro. Simone non sembra mai una persona responsabile. Comunque, rimanendo nell'attualità, Facebook sembra pentita di questo algoritmo che premia necessariamente il conflitto. E una mossa di stamattina è: adesso facciamo apparire più spesso nella timeline mamma e zia, cioè, ma anche sì, i vostri amici più prossimi, cioè loro hanno introdotto delle nuove regole per cui ti appare un mondo un po' più rassicurante. Questa a me sembra un po' l'ennesima foglia di fico, no, lo dico perché il motivo per cui i minori, i bambini, gli adolescenti soprattutto su Facebook praticamente non ci sono, cioè se ci sono hanno solo attrezzato un mondo di rappresentanza dove nella foto profilo abbracciano la fidanzata, così lei non pensa che possa succedere qualcos'altro, ok? Quindi è tutto un mondo per rassicurare la famiglia, la scuola, cioè il loro mondo reale si svolge altrove, le stanzette private di Instagram, di Snapchat, poi di Telegram, poi naturalmente Musical, perché hanno bisogno anche di una sfera pubblica pure loro, però una sfera pubblica al riparo del controllo del sistema scuola, genitori, eccetera. Facebook mette questa foglia di fico pensando così di rassicurare chi? Ancora una volta i genitori, ancora una volta diciamo l'establishment. Sì, vabbè, poi lì c'è tutto un discorso più ampio, insomma, andiamo un po' oltre i temi del libro, ma insomma, comunque abbiamo seguito anche in maniera un po' disattenta le vicende di questi ultimi mesi, tutto il tema delle fake news, dei contenuti a K-click, della roba dell'immondizia che circola, anche che c'è nonostante e continuava a raccogliere molto traffico. A me pare che questa mossa, adesso ve la spiego un po' più nel dettaglio, perché ha annunciato Zuckerberg con un post, poi c'è ritornato sopra il suo vero braccio destro, che è Adam Mosseri, che è quello che gestisce e decide della bacheca, cioè quello ovviamente, io l'ho intervistato con le persone, non sembra uno che serve hamburger in Minnesota, ma è fantastico, un personaggio straordinario, ed è il vero braccio destro di Zuckerberg. Sostanzialmente vedremo meno contenuti a chiappa click, meno video per noi magari non hanno molta rilevanza, ma che ci vengono proposti solo perché hanno fatto la loro volta più condivisione, più click, meno contenuti delle pagine, cioè dei brand, dei marchi, delle testate, dei giornali, o più cambia la pagina, e tenderemo, come dire, torneremo un po' sul riflusso intimista verso i contenuti amicali e familiari. Allora, per come la vedo io, sia per quello che riguarda il tema dei ragazzini, ma più in generale di tutti gli argomenti per cui i social network sono stati messi sotto accusa in questi mesi, no? Non sapete bonificare l'ambiente dalle notizie false, dalle pub, non sapete limitare la pervasività dei contenuti, dei pagamenti inutili che diffondono, eccetera, eccetera, è un po' buttare bambino con l'acqua sporca. Cioè, dal momento che io non riesco ad affrontare questi argomenti e queste difficoltà su queste piattaforme, faccio prima far fuori tutti i contenuti che in fondo potrebbero interessare un articolo, un contenuto, una news, un video, e riporto la stragrande maggioranza di ciò che le persone vedranno sulle pagine a ciò che arriva veramente dagli amici a cui metto più like, dai parenti con cui sono collegato, che per inciso sono anche calcoli più semplici, perché per Facebook sa benissimo, no? Cioè è in grado benissimo di ricostruire la propria rete quasi parentale per certi versi. E quindi tornerà per certi versi un po' le origini, no? Quello che era prima, un grande annuario, in fondo Facebook nasce come un annuario, un libro delle facce proprio, no? Quello che c'è in America, cioè l'annuario degli studenti, per cercare di rimorchiare poi in definitiva Facebook non l'ha inventato Zuckerberg, l'ha inventato due simpatici ragazzoni che oggi sono, grazie ai Bitcoin, anche spero che abbiano venduto in tempo, miliardari, che si chiamano, degli Intel, forse qui Zuckerberg ha fregato l'idea, poi li ha messi a posto con qualche decina di milioni di dollari. Un po' la storia di McDonald's, no? Sì, un po' The Founder, sì, è quella storia lì. E però nasce così, nasce per collegarsi con la ragazza del dormitorio a fianco, con quella storia dell'università dell'altro stato, nasce con queste logiche qui, perché poi uno pensa dietro, pensate cos'è diventato, no? Si ritorna un po' alle origini. Secondo me è una ennesima missione di debolezza, cioè non sappiamo come occuparci di questi argomenti, ma anche di molti altri, e quindi in qualche modo la finestra che avevamo aperto sul mondo, perché come dire, del mondo ci mostra anche le peggiori nefandezze, la richiudiamo molto e ci becchiamo i gattini dell'azienda. Allora, siccome alle 7 dobbiamo chiudere, manca un quarto d'ora, ti faccio un'ultima domanda, però se qualcuno ha qualche cosa da chiedere a Simone, già ci pensi adesso. Così abbiamo tempo anche per rispondere. A te, Simone, vorrei lasciare il compito di seminare una cosa da fare per chi ha figli. Come suggerimento, diciamo così, che tu metteresti in cima alla lista in questo momento. Come rompere quel piccolo muro di... Perché poi magari noi con i nostri figli abbiamo un rapporto di grande fiducia su tante cose e su questa no. Allora, io rischio di ripetermi, torno un po' a quello che ho dato per chiudere, a quello che dicevo all'inizio. Il consiglio che io darei è di cercare di capire esattamente come cercate di capire a casa di chi passerà il pomeriggio, o se la classe è ben sistemata, i controsoffitti non cadranno. Anche sul lato digitale bisogna preoccuparsi capire dov'è che passano gran parte del loro tempo. Questo bisogna farlo con una certa accortezza, perché c'è poi sempre il discorso di fiducia alla base, no? Invece che dove sei stato oggi, esatto. Com'è andata la giornata, chi hai visto al bar, eccetera. Magari chi ti ha chiesto la notizia oggi non è una domanda sbagliata. È sbagliato. No, nel senso che bisogna però cercare di capire e frequentarli per proprio conto, nel senso che se non, come dicevo all'inizio, se non si riconoscono veramente di, cioè, a livello proprio le impostazioni. Questa cosa invece di prendere il telefono dei figli e controllare il loro account? Questa cosa dovrebbe rispondere Alberto Rossetti, che non si vede la vera dai rischi di far danni, sembra così. Però, diciamo, da quello che lui racconta anche il caso di una mamma che ha installato, lo scrive nel libro, un'app spia del telefonino del figlio, e a un certo punto il figlio, che uno stupido non è, la sgama, perché dopo mesi in cui la madre lo anticipava solo di mossa, sapeva che sono fatti le canne in campeggio di scout, sapeva che cosa avrebbero fatto in vacanza, una serie di cose, eccetera. Ma la soluzione non è tecnica, questo è la soluzione, o forse in alcuni casi può essere anche tecnica se veramente c'è una situazione di tutto fuori controllo. Però la chiave è sapere, cioè un po' russoiana come lettura, no? Cioè preparare il campo per arrivare un attimo prima. Il problema è che i genitori sono spessissimo un attimo dopo, e anche quando pensano di stare un passo davanti, in realtà hanno solo una prospettiva piuttosto ristretta. Insomma, mandare due allegati in un WhatsApp e avere il profilo tutto, purtroppo non è avere competenza digitale. Questo è il punto. Così come non lo è pubblicamente non trarre su Facebook, se siamo adulti, mettere le foto in bikini delle vacanze. E poi se, no, se poi c'hai 10 persone che ti dicono come stai bene e la undicesima invece reagisce male, la insulti e gli dici sei solo invidiosa, eccetera. Ecco, allora questo significa portare la cultura degli anni 90 in piazza, e i tuoi figli ti guardano e tu non sei Roberto D'Agostino che dà uno schiaffo a Sgarbi. Poi sullo sei il papà, sei la mamma. Sullo sharing, cioè sulla condizione. Ecco, questa cosa dello sharing è che... No, l'ultima cosa te la volevo chiedere proprio su questo. Altra notizia d'attualità. È di ieri, una cosa che abbiamo letto sui giornali, a Roma potresti prendere una multa se pubblichi foto del tuo figlio minore, corretto? Me lo vuoi correggere, perché io non metto solo il mio. No, diciamo, automatismi non ce ne sono. Ecco, automatismi. No, te lo dico perché io ho svariate foto di mia figlia che ha 14 anni sul mio profilo. Cosa rischio? Quello è un provvedimento che il giudice ha previsto, ma che non ha ancora espresso ovviamente le sue intenzioni. Sarebbe richiesta quella intenzione solo nel caso in cui questa mamma, evidentemente presa da un demone compulsivo nei confronti di questo sfortunato sedicenne, dovesse non rimuovere i contenuti pubblicati e dovesse continuare in questo atteggiamento. Quindi quella è una sanzione, diciamo, potenziale. Davanti, non c'è nessuno. Come in Francia, quando c'è il three times and then you're out. Esatto, ma fatto che torna a quello che dicevi prima, anche lì i titoli, multa da 10.000 euro se pubblichi post. Io lo dicevo per prendere in giro i titoli di giornale. Sì. Non si imparano queste cose leggendo i titoli del giornale. Poco. Leggete gli articoli, ecco, fino in fondo. Sì, tanti colleghi dai, non cerchiamo di farli. E anche questo libro, sicuramente. Allora, abbiamo 10 minuti, credo, per qualche domanda. Ecco, Laura. Però prendi il microfono. Sì. Volevo sapere se secondo voi internet può aiutare i genitori a essere migliori genitori, cioè i social network forniscono ai genitori degli strumenti di curiosità, di apprendimento, di analisi sui loro figli, che li può rendere genitori migliori? Grazie. Allora, sì, sicuramente gli strumenti li offrono. Anche lì il discorso è come quello di prima, di andarti a cercare. Te li offrono sul piatto d'argento, cioè devi andarli a sporcarti le mani, di partner, Facebook ne ha fatte tantissime, c'è proprio un sito, praticamente una sottosezione di Facebook dedicata agli strumenti che i genitori hanno per i casi estremi, insomma, per ricorrere alle forze dell'ordine, per rivolgersi a G-Com, quindi ce ne sono un po' di strumenti, anche lì devi andarteli un po' a cercare. Poi certo, la miglior difesa è quella di interesse proprio, anche perché loro non hanno grande interesse a bloccare questa crescita di questa generazione che poi in fondo popolerà le loro piattaforme dopo domani, no? E già le popola in certi versi. Anzi, ecco, questo volevo dire, probabilmente ci illudono un po' di darci degli strumenti tipo la commercia Kids di cui parlavo prima, tipo Google Family Link, che serve proprio a più o meno la stessa cosa, cioè a controllare tramite un'app client installata sul telefono del ragazzino i suoi download dal Play Store, tutta una serie di cose, impostare un timer di spegnimento del dispositivo, sono cose utilissime, senz'altro. Se tu devi prendere più, loro ti offrono gli strumenti che possono offrirti e che comunque volenti non è che rientrano in quel perimetro lì. E sarà una string un po' più. No? Sarà una cappa un po' più ampia, probabilmente vale la pena frequentarla, conoscerla, utilizzare quegli strumenti, però rimane sempre all'interno di quell'equilibrio lì. E forse prima bisogna rendersi un po' più autorevoli, quindi più adeguati, prima ancora di poter avere gli strumenti utili. Lo già capito, esatto. Impariamo noi a usare meglio questi strumenti, e già questo è quello che stiamo passando. E altra domanda? Non serve, poi la ripetiamo per la registrazione. Una bella voce. Io dico, vedendo anche quando sono biondo, no? Ho capito quasi niente delle cose tecniche che avete detto, non ho Facebook, non ho Twitter, io non voglio niente, però io dico, la cosa più importante, credo, proprio alla base, ma non è necessario che i genitori ritornino a parlare ai figli, ad avere un colloquio, uno scambio? Allora, ripeto la domanda per la registrazione. Grazie. La domanda è: a parte Facebook, Twitter, ma non è il caso che i genitori ritornino a parlare ai loro figli? Come dicevo prima, nel mio portatore Alberto Rossetti è uno piuttosto severo, sono io la parte morbida della coppia, lui è uno anche abbastanza duro, e questa cosa la dice tranquillamente: se non c'è un patto di fondo con i genitori è difficile andare oltre. Il problema è che ritorniamo, cioè è un canesimo della cosa, cioè se i genitori stessi su questo argomento, su questi temi qui, non riescono a trovare una loro ecologia, giusto per dirla in termini un po' alti, no? Cioè a darsi delle linee, delle regole, dei principi. Il rapporto con i genitori mi soffre. Se posso aggiungere qualcosa, io condivido chiaramente quello che pensa Simone, è sacrosanto, naturalmente, ma non dobbiamo automaticamente pensare che le due cose si escludano. Parlare con i figli non esclude esplorare questi strumenti per capire il mondo in cui i figli si trovano oggi e si troveranno sempre. No, prima, insomma. Esatto, cioè la chiave anche per essere autorevole è la sensazione quando parli a una persona che già ha questi codici, che c'è nato dentro, che stai facendo uno sforzo per parlare anche quel linguaggio, perché attenzione, il nostro linguaggio non è quello dei genitori che sono nati come aghi a correre sui prati di caprette. Noi siamo nati con la televisione, noi siamo nati con tutte le distorsioni di una filter bubble, di una bolla di filtraggio del mondo che non è meno colpevole, anche perché era una bolla, era una sola interpretazione del mondo valida per tutti, era una bolla di significati. Oggi su internet sono tante bolle esecrabili, ma sono bolle di senso individuale, non di significato universale. Sono tante chiavi interpretative del mondo. Sicuramente comunque noi genitori dobbiamo essere un minimo d'esempio, no? Almeno sui social per i figli, ma comunque da quello che è uscito fuori è che tutto sommato loro, per esempio, su Facebook, cioè, mantengono un profilo, diciamo, basso, perché poi hanno istituzionale perché poi hanno tutto un altro, un'altra serie di strumenti che però, cioè, voglio dire, molte di quelle, alcune di quelle cose che avete nominato voi non le conosco neanche io, cioè, la risposta è devi conoscerle. Non c'è no way, nel senso devi metterti alle prese. Io stesso ne scrivo alle volte, perché ne seguo costantemente questo settore. Io spesso faccio delle iniezioni, dico su Musical.ly perché è una delle ultime più, peraltro una delle più belle, divertentissime. Di tutta l'evoluzione. Io faccio, vedete, ci sono delle cose orrende, ma io le faccio banalmente per rendermi conto della grammatica delle piattaforme, per ridere che le ha viste. Le odio profondamente, va bene, però per dire che poi, figuriamoci, io lo faccio senza alcun obiettivo educativo, lo faccio solo per divulgare meglio, per spiegare meglio, per sapere come funziona. Poi ci dai il link al tuo profilo. No, questa è una cosa che fa. Io non vedo molte, cioè alla fine torno sempre al punto di partenza. Bisogna selezionare bene, sporcarsi le mani, e poi se c'è alla base un rapporto, non dico trasparente, ma almeno lineare, franco con i figli, forse si fa un po' meno fatica. Antonio, per esempio, questa cosa la fa molto bene, e quindi la povera, no, nel senso, bisogna, poi ciascuno ha la sua storia e le sue sensibilità, questo senza dubbio. Io capisco tante cose di mia figlia da quello che pubblica sui social, certo. Soprattutto il problema, lei adesso è al liceo, una scuola di parierini, e lei chiaramente non lo è, e lì è tutta l'esibizione di marchi, di vestiti, no, c'è un piano della rappresentazione che francamente sarebbe esistito comunque anche senza Instagram, anche senza, certo, i social, no? Però questo mi fa capire i suoi problemi, cioè internet rivela tanti problemi degli adolescenti che magari prima non vedevamo. Ti cogli perché ci sei, però sì, perché ci sono, esatto. Altre domande? Eccola, puoi venire qua. Adesso io voglio fare una cosa che ho sempre sognato di farla in vita mia, dire voce! Parlavate di televisione, tecnica adesso piace tanto ai ragazzi 16-20, che era proprio la tecnologia, questa cosa di dover mostrare le cose che non fanno senso, non c'è qualcosa di vero, perché 10 anni fa, come diciamo io, c'era. Adesso ripetere la domanda. Allora, siccome la persona che ha fatto la domanda parlava di come è cambiato il suo modo di usare Facebook, da quando su Facebook c'è anche suo padre, quindi chiaramente questo è un po' la limita, si sente un po' controllato, eccetera, dai un piano più della rappresentazione, più edulcorato, e quindi chiedeva cosa c'è ancora di vero di quello che vediamo sui social, e poi soprattutto perché i social devono distorcere. Perché soprattutto i giovani sui social tendono a distorcere verso una forma di pornografia delle emozioni tutto quello che accade nella loro vita. Partendo da quest'ultimo aspetto qui, lo fanno banalmente perché è una strada semplice per cavalcare ciò di cui dicevamo prima, no? Cioè il DNA base che si piatta cosa. Queste persone premiano quel genere di coinvolgimento lì. Quindi tu, come dire, se sei in qualche modo legato perché tu vedi, perché questi sono piattaforme che tu metti te stesso al centro e lo moltiplichi, no? Io dico sono proprio del prisma in qualche modo, cioè social sono dei brividi che proiettano diverse faccettature della tua personalità, della tua identità. Il problema è poi quando ne perdi il controllo, no? Quindi quando diventa difficile da gestire, o magari quando banalmente un contenuto se ne parte, tu perdi il controllo e diventa ciò che non volevi. Saluto Antonio, per dirsene una, magari non coglieranno perché è un tema del sottoposto del web, ma per capire, no? Il poveretto, quello un povero disperato, poi paradossalmente ha saputo anche costruire un film, fa due soldi e va bene così, però quello è un po' il discorso. Come cambiano, tu dici, rispetto a... A parte che il consiglio che io do ai genitori non è necessariamente quello di essere sulle piattaforme con il loro nome e cognome. Se tu vuoi seguire il tuo video, ti fa un bel account, Pinco Banco, lo segui, saprà mai chi è Pinco Banco, puoi anche non seguirlo, dietro perché si è proprio Instagram è libero, puoi anche andare ogni tanto a vedere senza diventare un suo foto, cioè ci sono dei modi insomma in cui tu puoi starci senza interessarlo troppo. Però sì, c'è molto di vero, secondo me c'è molto di vero. Da quello che raccontiamo, da quello che abbiamo raccolto dalle testimonianze, da quello che ascolta tutti i giorni Alberto nelle classi, nelle aule, c'è tantissimo di vero. E che c'è tanto, cioè ci sono tanti aspetti di identità che vengono completamente ritagliati e diffusi sulle piattaforme, e spesso anche i ragazzi sono social media manager bravissimi di se stessi, quindi succede le piattaforme solo dove vogliono dare, come dire, dove vogliono dare l'idea di un certo tipo di profilo e non su altre. Noi raccontiamo velocissimamente questa storia interessante che dà sia l'idea, secondo me interessante per concludere, dà sia l'idea del gap di cui parlavamo prima, sia del modo in cui i ragazzi che si muovono, no? C'è questo ragazzino di cui raccontiamo la storia, che a un certo punto il padre scopre che pubblicava su YouTube delle clip di violino, cioè delle clip in cui lui insegnava in pochi minuti, in pochi secondi alcuni passaggi, si esibiva nel violino in maniera, poi scopriremo abbastanza a destra, ma insomma divertendo, lo divertiva, aveva qualche centinaio di volte di iscritti al canale. A un certo punto il padre, che era tutto il giorno che stava qui, prima di tutto viene informato, dopo che sto ragazzino diventa vittima di bullismo, viene informato che il figlio aveva un canale YouTube. Quindi prima di tutto devono spiegargli che cos'è un canale YouTube, perché infatti insomma, per lui il canale era Rai 1, Italia 1, cioè non aveva idea di che l'utente privato potesse disturbo, in un certo spazio organizzato, no? In modo anche top dance, poi YouTube ricalca moltissimo in quel tipo di impostazione. Una volta che ha capito che cosa è il canale, se ne rallega tantissimo, perché è il mio figlio è in televisione. Esatto, più o meno questo è l'effetto mio figlio di televisione, contentissimo. Dopo 3 o 4 mesi questa storia qui diventa problematica, perché in classe scoprono il canale YouTube del ragazzino, che in realtà in classe è un ragazzo molto timido, non so, molto riservato, un po' maldestro, così. Se ne accorgono e comincia a essere bullizzato per questi video, perché questi video sono amari, evidentemente, sono video di un principiante, pretende di dare dei consigli che ovviamente nessun principiante può pretendere di dare, e finisce bersagliato in un paio di grassi, un disastro. Il padre dall'ignoranza, ricordate la parabola, no? Dall'ignoranza totale di non sapere di cosa parliamo, all'esaltazione per il figlio che tutto sommato produce dei contenuti divertenti, alla disperazione perché viene pubblicizzato proprio a casa con gli stessi contenuti. I contenuti sempre quelli sono, eh? Nell'esaltazione, nella fase dell'esaltazione, il genitore non è inadeguato perché è privo di codici. è inadeguato perché ha altri codici, a quelli della televisione. Quindi vedete bene che non siamo nel mondo di AIDS. E poi la risolvono, in quel caso la risolvono perché portano la questione in classe, quindi aiutano però insegnanti, mi parlano, i ragazzi si esibisce in classe col violino, neanche al pubblico dei tutti, perché gli altri poi non sanno far nulla, quindi quantomeno lui se la sapeva cavare con una competenza. Questo per dirvi poi il fondo che c'è molto di vero, no? Magari vedendo un ragazzino dalla parte dell'utente che assiste a quelli clip o che si propone in altri modi, potresti pensare che c'è sempre molto di vero, che bisogna ricomporre il prisma. Va bene, allora, siccome adesso c'è un momento meraviglioso dell'aperitivo, che è il vero motivo per cui sono venuto qua, penso che dobbiamo chiudere. E quindi io vi ricordo questo libro di Simone Cosmi e Alberto Rossetti, Nasci, Cresci e Posta, edito Città Nuova, e grazie dell'attenzione.